America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, epoca nuova. Apriamo questo lunedì con un'epoca nuova che poi sia rassicurante o preoccupante, lo scopriremo, ma siamo al quarto giorno da presidente per Donald John Trump. Dal discorso di sfida ai democratici, ai repubblicani, all'establishment, si dovrà passare a un certo punto al governo, perché una cosa sono gli slogan, le promesse, un'altra cosa è concretizzare. Di certo sappiamo che la partenza brusca di Trump è una partenza voluta, una partenza di confronto, perché lui stesso credo abbia capito che questi primi fatidici 100 giorni saranno senza quella tradizionale luna di miele. Insomma, l'America è una svolta, entra in un territorio nuovo con il presidente più indipendente dai partiti che abbiamo mai avuto. È un esperimento nuovo. Nel frattempo Trump si sta dando molto da fare, ha visitato la CIA, ha rassicurato i servizi, voglio valorizzarvi, ha detto, ha parlato come da tradizione con i leader dei paesi confinanti, Canada, Messico, ha parlato con il premier israeliano Netanyahu, ha invitato Theresa May, premier britannico, a Washington. Ma sentiamo un passaggio chiave nel discorso di venerdì. From this day forward, a new vision will govern our land. It's going to be only America first. Siamo riuniti qui oggi per emettere un decreto nuovo che si senta nelle città, nelle capitali straniere. Da questo giorno una nuova visione governa l'America, da questo momento ci sarà soltanto l'America davanti a tutti, America first. Per prima l'America. Ecco, dalla posizione in cui mi trovavo all'inaugurazione, ero veramente a pochi metri da Trump quando parlava, ho notato come il suo discorso abbia raggelato il corpo diplomatico che era seduto in una sezione attigua a quella dove ero io. In genere il discorso inaugurale è improntato all'apertura e Trump, come vi dicevo, come avrete sentito dai vari reportage, ha scelto questa strada della provocazione, del neoisolazionismo, del protezionismo. Col tempo vedremo se questa è una tattica negoziale o una svolta storica di proporzioni colossali. E preoccupanti. Perché preoccupanti? Beh, perché se ci fosse protezionismo per l'Italia, l'imposizione di tariffa sarebbe preoccupante, perché esportiamo molto in America, abbiamo posti di lavoro legati alle esportazioni americane e certamente l'America, prima di Obama, adesso di Trump, economicamente sta molto meglio di noi. Poi c'è la leadership americana, una leadership per l'ordine mondiale che resta insostituibile negli ultimi 70 anni, ma Trump si è già messo al lavoro, sentiamolo. Renegotiating on NAFTA, on immigration and on security at the border, and I think we're going to have a very good result for Mexico, for the United States. Ieri ha parlato dalla Casa Bianca, ha detto incontrerò il premier canadese Justin Trudeau, il presidente messicano Enrique Peña Nieto, cominceremo i negoziati sul NAFTA subito, lavoreremo anche sull'immigrazione, sulla sicurezza dei confini. Il presidente messicano ci ha detto è stato molto disponibile, penso che raggiungeremo ottimi risultati sia per il Messico che per gli Stati Uniti. Beh, insomma, la promessa c'è e se davvero ci fosse un risultato buono per tutti, non potrebbe che andare benissimo per tutti. Il NAFTA rappresenta in fondo un banco di prova anche per noi europei, tanto più che Trump ha detto che vuole fare un accordo commerciale bilaterale con la Gran Bretagna che è uscita dall'Unione Europea. Ecco, in tutto questo non possiamo dimenticare le marce di sabato, devo dire mai viste marce di tale proporzione dappertutto in America. Solo a Washington la Women's March ha coinvolto 500.000 di persone. A livello nazionale, internazionale, ci sono stati circa 670 eventi di proteste organizzate dalle donne che si sentono sminuite dalla retorica aggressiva appunto nei confronti delle donne da parte di Donald Trump. Ma è scontro aperto anche tra il nuovo presidente e la stampa. Pensate, tutto questo è successo in pochi giorni, dal giuramento di venerdì a oggi, siamo appena lunedì, e vi dicevo scontro aperto tra il presidente e la stampa, la polemica, il numero effettivo di persone che ha partecipato all'inaugurazione, le stime variano 250.000 persone, 500.000 persone, ma sono molto molto lontane dal milione 200.000 persone rivendicato da Trump. Sentiamo Sean Spicer, portavoce della Casa Bianca. This was the largest audience to ever witness an inauguration, period. These attempts to lessen the enthusiasm of the inauguration are shameful and wrong. Ecco, avete sentito il tono, anche questo un po' aggressivo, dice Spicer, è stato il pubblico più grande da sempre ad aver partecipato a un'inaugurazione, punto. Ma lo stesso New York Times si lamenta, ha pubblicato una foto che volutamente vuole sminuire la portata del fenomeno. Questo tentativo di minimizzare l'entusiasmo dell'inaugurazione è vergognoso ed è sbagliato. Ecco, i fatti ci dicono che non c'era. E i fatti sono importanti, su questo ci si dovrà chiarire. Non è un buon biglietto da visita per un portavoce che dovrà lavorare a stretto contatto con la stampa e dire delle cifre che non sono quelle giuste, che non sono platealmente quelle giuste. Ecco, siamo in un momento di grave polarizzazione, dove non è neppure vero a questo punto cos'è chiaro, cos'è verità, cos'è finzione. Meglio fare un passo indietro, ritrovare fatti incontrovertibili, partiamo da quello su cui sarà possibile confrontarsi. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione ma apre come sempre una frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, il viaggio del 45esimo presidente appena cominciato, e dunque dedichiamola a Jimmy Castor Bunch. It's just begun, è appena cominciato. La New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye e come sempre, get going!